Fiumi di cristallo scorrono danzando tra le rocce. Un canto di vita che si perde nell'abisso. Le gocce raccontano storie di mondi sommersi, mentre la luna si specchia in un abbraccio di luce. Le onde si infrangono, un ritmo di pulsazioni, un mare di emozioni dove il tempo si dissolve. La pioggia scende dolce, un bacio sulla pelle, e ogni goccia è un ricordo, un frammento di esistenza. Un universo nascosto, creatori di sogno nuotano in un silenzio profondo. L'acqua è un mistero, un viaggio senza fine, un ciclo eterno che ci unisce e ci separa. E quando il sole sorge, riflette la verità, l'acqua danza leggera in un gioco di luci. Mentre il mondo si risveglia nel suo abbraccio infinito.